Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, seconda puntata che dedichiamo al MOSE. Dopo quella di ieri sulle sfide tecnologiche, questa sera chiediamo a Hermes Redi, direttore generale dell'Opera, di renderci conto di alcune delle polemiche che la circondano, per la verità numerosissime. Ad essere messa in dubbio è persino la capacità delle cerniere che tengono le paratoie ancorate al fondo e permettono loro di salire e scendere, di resistere alle sollecitazioni. Cominciamo da qui, sentiamo. Conosco bene la polemica sulle cerniere. No, le cerniere sono certamente una parte importante di questo, ma voglio dire anche le nostre cerniere sono una tecnologia di cose che sono provate su, per esempio, le torri petrolifere. Le cerniere sono una parte sostanziale, fondamentale, che noi stiamo costruendo con grandissima attenzione, che stiamo controllando continuamente nella produzione, però diciamo sono forse meno nuove, sconosciute di altri argomenti. Allora, dunque, a proposito di polemiche, devo chiederle un po' di cose. Una di queste riguarda il fatto che originalmente fu messo in discussione o fu comunque contrastato il MOSE perché si diceva aumenterà il numero di eventi di acqua alta, magari di bassa entità, che colpiranno Venezia. Negli ultimi anni un aumento c'è stato, si diceva che la cosa avrebbe potuto essere causata dall'allargamento delle bocche di porto. Voi avete registrato qualche cambiamento? Ma allora, diciamo, noi abbiamo tutte quante le registrazioni naturalmente di tutte le maree, perché teniamo controllata la cosa. Addirittura negli ultimi 2-3 anni abbiamo un software che permette di simulare una volta note le previsioni meteorologiche, come ci dovremmo comportare con le paratoie e quanto precisi saremmo stati nel movimento. Diciamo che mediamente le chiusure sono le stesse, ci sono degli anni che meteorologicamente sono diversi, però se non c'è un trend di aumento anche degli eventi, ma un trend, allora ci sono degli sbalzi, ma non c'è un trend effettivo di aumento. Ci sono degli anni in cui abbiamo avuto addirittura 80-90, perciò questo certamente. Però non abbiamo così tanti anni da poter dire di osservazioni in quella stessa maniera per poter dire che questo è un trend. Ci sono degli alti e bassi, ma questo certamente non può essere imputato alle opere, alle bocche, perché l'aumento però della velocità delle correnti, questo l'avete visto, abbiamo, e anche questo diciamo in alcune bocche c'è un aumento della velocità, Chioggia più delle altre, ma sono aumenti molto molto limitati. E la velocità è aumentata perché le bocche sono state un po' chiuse, perciò per far passare la stessa quantità d'acqua, l'acqua deve correre più veloce. Altro dubbio che viene spesso sollevato è che in presenza di mare mosso, molto mosso, le barriere possano disallinearsi fra loro e quindi far venire meno la funzione di chiusura delle bocche di porto. Bene, questa è una cosa, è una delle polemiche ancora in piedi. Diciamo, questa è una cosa che noi avevamo già notato ancora negli anni 90, e perché è certamente vero che situazioni come questa possono andare in risonanza. Si è cambiata la forma delle paratoie, si è cambiata l'inclinazione delle paratoie per portare completamente fuori da quello che può essere la possibilità di entrare in risonanza con le onde, cioè con le paratoie onde, che sì, entrano in risonanza, sì, con le onde. Invece queste qua dovrebbero restare ferme. E abbiamo fatto tutta una serie di test sia su modelli fisici che su modelli matematici che hanno confortato proprio la scelta del tipo di inclinazione, della lunghezza che è variata delle paratoie. Insomma, in buona sostanza, Redi respinge tutte le critiche ed è probabile che effettivamente alcune di esse siano del tutto campate per aria. Una cosa è certa, l'opera deve essere completata o non servirà a nulla, perciò trovare il miliardo di euro che ancora manca sarà compito ineludibile dei prossimi governi. Personalmente sono anche convinto che l'opera funzionerà, cioè farà quel che è progettata per fare, fermare l'acqua alta quando questa supera il 1,10 m. Meno certo è se il MOSE si dimostrerà la scelta migliore per tutelare il delicato ecosistema della laguna. È vero, come dice il direttore Redi, che l'aumento di frequenza delle acque alte in questi ultimi anni non è statisticamente significativo, ma preoccupante dovrebbe esserlo. D'altronde lo stesso Redi ha sottolineato nella conferenza stampa di sabato come il MOSE sia parte di un progetto più ampio, che ha visto interventi in tutta la laguna proprio volti a mitigare gli effetti degli eventi di acqua alta che non superano il 1,10 m, cioè quando si prevede di far entrare in funzione il MOSE. C'è da sperare che questa volta abbiano fatto bene i conti. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.